Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Il regolamento non è cambiato. Smoking, abito da sera, nessuna menzione sulle scarpe. A placare le polemiche delle ultime ore a Cannes è direttamente il direttore del festival Thierry Frémaux, con una precisazione su Twitter circa il presunto obbligo di scarpe con tacco sul red carpet. Sì, perché a quanto pare alcune signore non sono state fatte entrare alla prima di Carol perché indossavano delle paperine. Immediatamente è scoppiata la polemica, che è rimbalzata su moltissimi quotidiani internazionali, fra cui anche lo USA Today, il Mirror, il Time e il Guardian, e numerose anche le voci di grandi nomi come quello di Emily Blunt, che si sono messe dalla parte delle ballerine. Non dovremmo proprio portarli i tacchi, ha dichiarato secca l'attrice. Io preferisco indossare scarpe da ginnastica, in particolare le Converse. Tutto questo è molto deludente. E mentre alcuni attori uomini hanno per solidarietà dichiarato che si sarebbero messi i tacchi pure loro, le bellissime sul red carpet non sgarrano mai e sotto i favolosi abiti da sera indossano solo e soltanto il tacco 12. Si sono sbizzarriti tutti gli osservatori di costume legato all'avvenimento internazionale del Festival di Cannes del cinema per questa notizia che è iniziata a girare su Twitter, e premetto, non è che Twitter sia il luogo della massima verità, però probabilmente un fondo di realistica evidenza c'è. Sono state rimandate indietro alcune signore che stanno andando alla proiezione del film Carol, perché sul red carpet si va solo con il tacco 12. Ora, premetto che non ho nessuna simpatia per le ballerine, io penso che la linea di discrimine massimo per indossare una ballerina sia il menarca. Oltre il momento in cui si diventa donne non bisognerebbe più mettere le ballerine, poi ognuno mette quello che vuole. Ma vorrei questa mattina prendere questa occasione per parlare dei tacchi. I tacchi è indubbio che piacciono agli uomini, è indubbio che una donna con i tacchi è molto più appariscente, molto più seducente. Il tacco in sé ha una caratteristica di ingegneria psicofisica attizzatoria, per cui la donna col tacco ha improvvisamente un esaltare della parte posteriore, un arrotondare del polpaccio, un aumentare dell'ancheggiare, un ammiccare. Insomma, vedi una donna coi tacchi, la noti, comunque la noti. Se si toglie i tacchi scompare, ma coi tacchi la noti. Quindi è un accessorio di bellezza, di seduzione. Ma vi rendete conto che i tacchi oggi si mettono in ogni occasione e ogni categoria di donne, pur liberate, pur affrancate da ogni giogo di vessazione maschile, comunque si sentono costrette a mettere i tacchi. Beh, io questa mattina vorrei, estimatore dei tacchi, indubbiamente, grande ammiratore delle donne taccate, dare uno spiraglio di serenità e di libertà alle donne lanciando una campagna umanistica per l'abolizione del tacco. Donne, scendete dai vostri tacchi e siate libere. Questa è una campagna per chiedere che le donne toste scendano dai trampoli e rinuncino ai tacchi. Ma chi sono le donne toste? Toste per eccellenza sono le sportive, innanzitutto. Ma se entrano nello star system diventano paradossi viventi. Tacchi a spillo e tubino, pur sapendo che tirano di scherma, calciano, corrono, sparano o menano cazzottoni. Poi ci sono le telegiornaliste, conduttrici, scrittrici, opinioniste. Sono toste se mostrano cipiglio e verve. Anche arroganza e disprezzo fa punteggio. Ma pure in questo caso il tacco deve certificare che, sempre e comunque, si tratti di donne, ovvero esseri che accettano tortura e limitazione al passo sciolto. Non sono assolutamente un moralista. Amo la donna in atteggiamento attizzante, amo la donna ammiccante, amo la donna che dimostra disponibilità e seduzione senza che ciò comporti necessariamente attacchi feroci da parte della compagine maschile degli ammiratori. La donna può fare quello che vuole, ma si renda conto che comunque non sempre, in tutte le occasioni, probabilmente avrebbe estro voglia e volontà di mettere i tacchi. Vedo amiche e colleghe uscire la mattina, salire in metropolitana, andare a lavorare, girare per tribunali, per uffici, con dei tacchi chilometrici. Dico, ma perché metti i tacchi? Ma sai, le mettono tutte, posso farne a meno. Quando entro in ufficio, vado da un cliente, vado da una persona con cui ho un rapporto di lavoro, devo mettere i tacchi, perché tutte le donne hanno i tacchi. Ma ti fa piacere metterli? No, ma sei matto, dicevo, i piedi deformati, un dolore terribile. Infatti si mettono delle pianelle portatili e chiudibili in una sorta di astuccio, e appena possono se li levano le scarpe e si mettono le pianelle. Osservo io molto spesso, viaggiando in treno, come noto, avendo una frequentazione settimanale dei treni italiani, che affascinanti signore profumatissime dame, rappresentanti della massima seduzione, quando si siedono nel Frecciarossa fanno un sottile gioco di mascheramento, mettendosi sotto il tavolino, aprendo il laptop, ma si tolgono le scarpe, perché hanno i piedi ormai deformati, hanno i piedi ridotti e delle bistecche alla tartara, delle cose del genere. 800240024, ma è proprio giusto che siate costrette a mettere i tacchi? Oggi vi insegnerò gli esercizi per essere più sexy sui tacchi alti. Nessuno di noi può rinunciare ai tacchi alti perché sono sexy e la camminata elegante, però tutte sappiamo che è molto difficile camminare sui tacchi alti e soprattutto possono procurare dei problemi ai piedi, dei dolori sia alle punte che all'arco plantare che al tallone, e per questo faremo tre esercizi che ci aiuteranno a gestire sia la camminata che i dolori che ne possono procurare. 800240024, ma allora è vero, sono degli strumenti di tortura. Questa signorina che fa fare degli esercizi via YouTube alle donne per mettersi i tacchi dice: sì, fanno male, ma vi faccio fare degli esercizi perché facciano meno male. Ho un amico podologo che dice: che bello, da quando il tacco 12 è diventata una moda irrinunciabile noi lavoriamo un sacco, vengono ragazze a 25 anni già i piedi deformati, già con delle deformazioni ossee ormai irreversibili, e quindi per noi è tutto lavoro. Daniela, buongiorno. Sì, buongiorno. No, volevo intervenire io perché io non ho mai portato i tacchi. Vabbè, lei scusa, è esattamente al contrario, però Daniela, la donna che deve buttare in faccia all'uomo il disprezzo e dire: io non faccio nulla per essere bella, perché non l'ha mai portati? Ma no, perché io non voglio camminare bene, voglio camminare veloce e con tacchi non ce la posso. Ma il tacco mica si mette per camminare, il tacco si mette per sedurre. No. Io vedo però quando si va alle cerimonie, al ristorante tutti si tolgono le piedi, le scarpe, le mettono sotto la tavola. Io sono sempre con i piedi... sandala piedi. Quindi lei non è seduttiva, ma nemmeno a Satana al prossimo con la puzza dei piedi, diciamo la verità. No, assolutamente. Ma nemmeno un momento nella vita ha avuto in cui lei con quel tacco avrebbe scardinato l'ultimo barlume? No, niente. Mai? Neanche per sogno. Ma è sposata, fidanzata, amanti? Sì. E suo marito non l'ha mai detto: dai, mettiti un tacco? No, assolutamente. Ciabatte? Sì. Ciabatte pianelle, vabbè, lei è la mortificazione gonadica resa per eccellenza, anche questa è una libera scelta e quindi noi l'apprezziamo. Di recente sono apparse le toste della politica, in assoluto le più brave a tener testa ai maschi nei pubblici dibattiti, negli agoni televisivi, nelle dichiarazioni acuminate via tweet. Anche loro difficilmente si producono in assenza di tacco stiletto. Lo fanno tutte, anche le più tranquille. Magari affogano lo stivaletto malese in ampi pantaloni molto austeri, ma quando le si vede indivanettate in tenuta da talk, svetta la micidiale taccatura da pesta masochista. Non è possibile immaginare la femmina dal robusto carattere come dalla spregiudicata vigoria psicofisica anche più comodamente calzata? Sono molto grato al collega Guido Scotti che questa mattina, l'ultimo istante, mi ha prestato la voce per dare corpo al nostro manifesto contro la donna taccuta. Ripeto, noi ammiratori profondi di ogni accessorio che possa dare illusione di intimità presunta, illusione di disponibilità irrepetibile, però il tacco obbligatorio no, perché corrisponde alla gogna, corrisponde ai ferri ai piedi, corrisponde a quelle deformazioni che si facevano alle donne cinesi fino alla fine dell'Ottocento. Vediamo queste foto, questi daguerrotipi, donne cinesi con dei piedini che potevano entrare in una tazzina da tè, diciamo, che inciviltà, deformano i piedi alle donne per non farle scappare. Altri mettono dei lunghi collari e allungano il collo alle donne, altri mettono dei bracciali, altri mettono delle cose, comunque sia, gonne, vestiti strettissimi. A cosa serve il kimono se non a impedire alle donne di fuggire? L'uomo deve sempre mettere una sorta di catena alla donna, proprio che la donna scappi. L'uomo occidentale, liberato, affrancato, contro ogni oltranzismo e contro ogni esagerata condizione vessatoria, però mettere le donne i tacchi. Le donne sono costrette a mettere i tacchi, perché se agli uomini non piacessero non metterebbero i tacchi. Maria Teresa, buongiorno. Buongiorno. Dico, appunto, noi poi ci critichiamo i cinesi, le civiltà primordiali che deformano il burka, queste cose donne. Qua e noi mettiamo i tacchi, pensi bene. Sono rimasta di stucco, non pensavo mai che a Cannes si proibisse una cosa del genere, andare con le ballerine. Cioè, La ballerina un pochino, diciamo, sì, uccide ogni fantasia, diciamo la verità. La ballerina proprio, al di là dei 12 anni, secondo me andrebbe vietata per legge. Però c'è una via intermedia, no? No, No, vabbè, ma proprio è assurdo. Tra l'altro tutte le conduttrici della televisione, diciamo, di questi programmi di intrattenimento delle casalinghe il pomeriggio, se non hanno il tacco 12 non si presentano, anche se ormai hanno superato la cinquantina. Assolutamente, anzi anche di più. È chiaro, stando sedute fa vedere il piedino col tacco, ma le sportive, un atleta che ha compiuto un record impossibile va con il tacco 300.000. La giornalista dimostra che ha fatto un reportage in zona di guerra, è camminata in un campo minato, ha sgozzato i nemici, tanto porta il tacco 12. Ma sì, la politica, infatti, la Bennetta sta benissimo con le scarpe da tennis, invece appunto in una serata speciale si deve presentare per forza col tacco 12. E se no non è, le immagini, tante donne politiche hanno dei pantaloni larghissimi, sembra quei trampolieri che si vedono nelle fiere di paese, che dentro hanno i trampoli, i pantaloni larghi larghi in fondo che sfiorano terra. Siete delle donne raso terra, con questi pantaloni che sembra che non hanno i piedi. Quando si siedono si rende conto che all'altezza del ginocchio inizia la scarpa col tacco. Ma le sembra bello? No, assolutamente. Impossibile immaginarle correre poi. Impossibile, perché... Ma anche camminare, il rischio, ma è fatto di apposta. Slogatura, ma... una caviglia, non lo so, scendere le scale. Infatti è successo alla Barbara D'Urso, no? Che è inciampata. Pensi un po'. Poveretta. Però, Maria Teresa, le confesso un segreto. Noi uomini vorremmo che le donne stiano sempre legate con un laccio, che non scappassero mai. E abbiamo trovato questa fantastica idea che con il tacco alto si sentono desiderate, si sentono apprezzate, si sentono strafighe, ma allo stesso tempo non possono fare due passi perché corriamo dietro e le raggiungiamo. Marcella. Sì, buongiorno Nicoletti. No, intanto volevo spezzare una lancia a favore delle ballerine e volevo ricordare a proposito Audrey Hepburn in Sabrina, e credo che nessuno possa dire che non era bellissima. Sì, bella, ma faceva, cioè, bella per un sacrestano, per un seminarista, per un giovane dell'Azione Cattolica, ma bella per cosa? Era una bambina. No, era di una classe e aveva le ballerine. Cioè, ma infatti non faceva attizzare, c'aveva, cioè, classe, ma il tacco, il tacco. Secondo me era anche molto sexy, ma detto così. Cara, il tacco ispira porcate. Quando un uomo vede una donna con i tacchi, pensa subito le cose peggiori, e la donna lo sa e per questo si mette i tacchi. Non prendiamoci in giro. Benissimo, sono d'accordo, ma perfetto. Anche no. Ma come anche no? Sì, è così. Però io devo dire che i tacchi non li metto. Non li metto, li ho messi quando mia madre me li proibiva, li mettevo. Certo. Una volta ho avuto l'ok ai miei 17 anni, eccetera, adesso ne ho 54, non li ho più messi. Insomma, se le piace piacere, qualche volta è bene metterli i tacchi. Qualche volta per piacere, però per un divertimento, per una mia scelta. Certo, per divertimento, è un gioco, è esatto, un giocattolo, la scarpa esatto. Col tacco è un giocattolo. Però dico anche viva le ballerine. Sì, vabbè, ognuno ha diritto di mortificare il proprio uomo come vuole. Ma le immagini, so che danno sofferenza, immagini che noi uomini per piacere ci mettessimo, che ne so, un evidenziatore chiodato. Dice, alle donne piace tanto l'evidenziatore chiodato, ti metti questa sorta di conchiglia chiodata, ti sembra che hai davanti chissà che con tutti i chiodi che ti sospingono. Dice, però così sei sexy, sei desiderabile. Uno lo fa anche, soffre, ma lo sa che comunque il prezzo del piacere è una profonda sofferenza. Ecco, io vorrei da uomo dire alle donne, liberatevi da questa necessità di soffrire. A tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Un consiglio che diamo sempre è quello di scegliere le scarpe che hanno un minimo di plateau, perché il plateau ammortizza un po' i passi e quindi fa sì che i nostri metatarsi non soffrano troppo. Un altro consiglio è quello sempre di misurare il piombo del tacco per vedere se è in linea. 800240024, parliamo questa mattina di una crociata per liberare le donne dall'obbligo di mettere i tacchi sempre. Poi lo mettono quando vogliono, come vogliono, se a loro piace, ma visto che è una sofferenza, probabilmente non può essere un'imposizione dietro la quale si nasconde il desiderio nemmeno tanto occulto di compiacere gli uomini. Mi scrive un ascoltatore: Nicoletti, di tutto puoi parlare meno che di gnocca. Ne prendo atto, probabilmente c'è chi ne parla molto e c'è chi ne parla poco. Io sono di quelli che non ne parla perché non ne ha naturalmente una conoscenza così approfondita e poterne parlare. Elena, buongiorno. Buongiorno. Sì. Allora, io sono una che li mette da sempre i tacchi, adesso magari non è sempre un tacco 12, ma sarà un tacco 9 o 10 centimetri. Però se uno prende una buona scarpa lo può tenere, questo è il discorso. Le ma perché da 45 euro... Perché dovrebbe tenerlo? Mi domanda, una domanda che mi faccio. Perché non sono altissima e quindi mi piace essere un po' più slanciata e secondo me sto meglio. Le attribuisce carisma. Sì. Ma sì. Che una donna sia meglio con i tacchi è scontato, è molto più bella. Questo ma a me piace anche per come mi vesto, io porto le gonne e quindi... stacco la gonna è la morte sua, è chiaro. Regala uno stacco e un punto di vista, un'occulta immaginazione che nemmeno nessuna scarpa normale regalerebbe. Ma esistono delle situazioni in cui il tacco è veramente un'imposizione, cioè devo mettermi i tacchi? E no... Io immagino, vivo in una città fatta di San Pietrini, in cui camminare coi tacchi diventa un esercizio difficile. Magari in alcuni luoghi è più facile. Quando uno cammina per la città di Mantova, effettivamente deve stare attento a stare solo sul marciapiede, perché poi attraversando le strade devi veramente stare attenta nel centro. Ma ci si sente più ammirate quando si cammina con i tacchi? Sì. Sì, può essere anche una cosa di vanità, questo sì. Ma perché si dimenano più i fianchi? Qual è il motivo? Mi spieghi? Ma può essere, ma no, adesso a me non me ne frega niente, però me ne frega, se li mette. Sì, ma perché mi piace? Io non mi vedo con una scarpa bassa. Si sente bella, come un uomo quando è ben vestito, quando ha un bel vestito dice come sono figo. Sì. Ecco, è logico. Ma che è molto semplice. Ma guardi, io non voglio essere frainteso. Se ciò gratifica la donna, è giusto se li metta. Ma il nanosecondo una donna li mette come obbligo, per piacere e magari ha una sofferenza ai piedi, dovrebbe seguire a quello che è il dettame della nostra crociata. Il tacco esagerato non è più in linea con la modernità. È un derivato dalla palla al piede, dalla catena, da ogni limite maschile alla mobilità femminile. Il tacco attizza l'uomo, è vero, ma lo rende avvantaggiato nel riacchiappare la donna che volesse fuggirgli. Nessuna femmina di piglio guerriero si dovrebbe sempre ridurre a un inerpicamento artificiale di almeno 12 centimetri. Il tacco esagerato serve solo a compiacere il punto di vista di maschi fatalmente rasoterra. Quindi è ora di eliminarlo. Donne, che ne pensate? 800240024, Alessandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Io credo che il tacco invece vada preservato, così come vadano preservate altre usanze che hanno, secondo me, come origine una certa provenienza di stampo tribale, se vogliamo, no? Pensiamo anche al fatto di bucarsi i lobi delle orecchie, ad esempio, di farsi un tatuaggio, e ci vengono subito in mente le immagini delle tribù africane che per a loro modo manifestare una certa idea di bellezza si sottopongono a cose ben peggiori rispetto a sì, ma anche a le labbra piattello, le donne giraffa, sono tutti sistemi comunque, sì, di passaggio iniziatico, ma anche di vessazione. La donna giraffa ha degli anelli di ferro al collo, non si muove, sennò gli si stacca il collo. Le donne che mettono i tacchi è come se avessero una catena, una palla al piede. Di questo volevo, su questo volevo riflettere, poi ognuno metta quello come che vuole. Come le donne che si tumefanno volontariamente le loro labbra hanno in molti casi, grazie al cielo, difficoltà a parlare. Ecco, io sono da uomo chiaramente auspico che, perché non mi piace vedere l'uomo che si effemmina sempre di più e da donna che si mascolinizza sempre di ma più. Ma guardi, diciamo davvero... va da sé. Il tacco è simbolo di iperfemminilità, ok? Però devo dire, il momento che diventa un obbligo sociale, io comincio a dire rifletteteci, perché sono cose, se vi fanno male ai piedi, evitate di metterveli, poi metteteli quando vi pare. Monica. Sì, buongiorno. Io chiamavo per quanto riguarda quello che diceva prima delle donne che vanno al lavoro con i tacchi e si fanno chilometri e chilometri. Volevo dire un'esperienza che ho avuto qualche anno fa quando sono stata a New York. Ho notato proprio al mattino tutte queste donne truccate, vestite benissimo, tailleur, gonne corte, con le scarpe da ginnastica. Tutte camminavano freneticamente e mi sono chiesta ma come mai vestite bene con le scarpe? Poi mi hanno spiegato che le cambiano in ufficio proprio per non soffrire con i tacchi alti, quando entrano in ufficio cambiano, e però per strada rimangono con le scarpe. Ma mi ginnastica. Sembra un'ottima abitudine portarsi dietro, diciamo, l'arma proibita dentro la borsetta e mettersela soltanto in ufficio, che può essere utile avere il tacco, ma evitare che diventi una tortura quotidiana solo per compiacere l'uomo che vorrebbe, ripeto, tutte le donne incatenate e a sé avvinte. A domani.